La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:31 primi e 2 secondi da Milano, dai studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo della versione di Oscar @radio24.it e il numero di telefono per intervenire in diretta 800 24 00 24, 349 238 6666, per le opinioni con gli sms. Torniamo sulla questione di cui ci eravamo occupati qualche giorno fa, quello del rinnovo dei contratti pubblici, perché come probabilmente molti di voi avranno sentito o letto stamattina sui quotidiani, ieri è avvenuta la sottoscrizione tra tutti i sindacati e il governo del protocollo di intesa, il protocollo di intesa per il rinnovo dei contratti pubblici, il protocollo di intesa sulla base del quale il governo farà un atto di indirizzo all'ARAN, perché poi sapete, o comunque se non lo sapete ve lo dico, poi parte la contrattazione vera tra i sindacati e nei quattro comparti in cui sono stati accorpati quelli che erano molto più numerosi, diversi comparti del pubblico, pubblico impiego. Ma la contrattazione non poteva partire senza questa intesa su, diciamo, i principi generali. Ecco, quindi io vi chiedo subito, se siete dipendenti pubblici, che vi sembra di questi 85 euro, che è la base dell'intesa raggiunta ieri, di aumento retributivo medio su base triennale. Tenete conto che io ho scritto, c'è un lungo post su Facebook che ho anche rilanciato, io ho quattro dubbi alla luce di quello che ho scritto su questa vicenda negli anni, che vi sintetizzo estremissimamente perché poi vado a presentarvi il nostro ospite, l'autore di un libro di cui dirò qualche parola, perché secondo me, per chiunque voglia accostarsi, non essendo un addetto ai lavori, ai problemi generali della pubblica amministrazione, io ho trovato questo libro, che è un libro agile perché sono in tutto 165 paginette, ma con carattere anche abbastanza grande, quindi non è un tomone densissimo. È scritto sì da un addetto ai lavori, ma e per tutti i cittadini che vogliono fare una serie di riflessioni sulla pubblica amministrazione e il lavoro pubblico. Quali sono i miei dubbi? Io ho quattro dubbi su questa intesa di ieri. Prima intesa, primo dubbio: i sindacati hanno chiesto e pare ottenuto, da quanto si capisce dal governo, che l'aumento medio, vedremo come distribuito nei tre anni, perché tutti questi particolari li capiremo solo nella contrattazione, di 85 medi euro medi lordi di aumento, non intacchi gli 80 euro che negli ultimi due anni, sul totale di 3.1 erotti milioni di dipendenti pubblici, pare abbiano incassato circa 800.000 dipendenti pubblici, di cui 250.000 nella scuola. Io vi ricordo che il bonus 80 euro andava fino ai 26.000 euro lordi di reddito. Non lo intacca significa quindi che si sommano. Mio primo dubbio: questo non avviene nei contratti privati, e non avviene perché la controparte dei contratti privati, ovviamente, ci sono i sindacati da una parte e le imprese private. Siccome qui c'è lo Stato, i sindacati, io li capisco, hanno chiesto questa cosa, però se la ottengono, vedremo come è scritta, ma se la ottengono e non c'è nei contratti privati, è un primo segno di iniquità difficilmente digeribile, difficilmente digeribile. Seconda questione: io ho sempre scritto che dopo questi 7-8 anni oramai saranno di stop dei rinnovi contrattuali, sapete che la Corte Costituzionale aveva detto che bisogna rinnovarli e aveva anche detto non bisogna recuperare il pregresso ma bisogna rinnovarli, era necessario un cambio di paradigma proprio, cioè bisognava identificare questi nuovi contratti come lo strumento per ridare non solo onore, orgoglio e dignità al pubblico impiego, ma per ancorarlo a delle metriche di produttività, questo sia per i dipendenti pubblici, per le loro unità organizzative, sia per i dirigenti. E questa cosa andava chiarita prima di fare un'intesa sul rinnovo, l'intesa, diciamo così, sul totale della retribuzione aggiuntiva. Perché si fa così con i contratti privati, eh? Cioè, se per un anno si è trattati su quello dei metalmeccanici, prima di aver firmato un accordo, lo abbiamo commentato qui, secondo me molto innovativo, è proprio perché bisogna mettere a punto tutti i dettagli delle novità, che in quel caso sono la derogabilità del secondo livello, la produttività, la sanità e la previdenza a carico delle imprese che integrano l'aumento retributivo. Ed è in base a quello che si arriva ai 92 euro dei meccanici, perché in realtà più del 40% è fatto dalla maggior contribuzione delle imprese per la sanità e la previdenza per tutti i lavoratori del settore. Ma queste cose si stabiliscono contestualmente. Invece, quindi, secondo la mia critica, qui si fa un'intesa sull'aumento retributivo, si dice che non toccherà gli 80 euro, ma le metriche di produttività sia per i dirigenti che per i dipendenti, quelle si vedranno in concreto nelle trattative dei quattro comparti, quando già c'è l'ok però sulla parte salariale. Questa cosa secondo me è un rischio potentissimo, potentissimo, perché senza maggior produttività del lavoro pubblico in Italia nessuna riforma, siate per il sì, siate per il no, qualunque cosa pensiate, ha delle gambe per potersi verificare e attuare con buona efficienza. E questo è il mio secondo dubbio, e quindi anche in questo caso noi rischiamo contratti privati che sulla produttività siano molto più concreti rispetto a quelli invece del lavoro pubblico. Quindi secondo vantaggio per il lavoratore pubblico, svantaggio per il paese, lo definirei non tanto un vantaggio per loro, perché molti dipendenti pubblici non chiedono niente di meglio che essere misurati e premiati per il loro merito. Terza osservazione: che cos'è che ha fatto la differenza? Purtroppo il ciclo elettorale, perché il referendum si avvicinava e quindi il governo doveva stringere, chiudere, dare l'annuncio dell'intesa raggiunta, e i sindacati questo lo sapevano. Purtroppo, sempre così, in Italia il ciclo elettorale, il fatto che si voti ogni 6 mesi per una qualunque cavolo di ragione, amministrative, europee, politiche o referendum, importantissimo come in questo caso, spinge la politica a dover prendere delle decisioni che talvolta si verificano come nemiche del meglio da questo punto di vista. E anche in questo caso, secondo me, ha avuto un certo peso la faccenda. Quarta osservazione, i costi. I sindacati hanno quantificato ieri in 850 milioni aggiuntivi di retribuzione per il 2017 da prevedere in legge di bilancio. Tenete conto che a questo poi si sommano gli aumenti retributivi e gli 80 euro per le forze dell'ordine e i militari, che sono esclusi dai quattro comparti del pubblico impiego, le somme indicate dal governo per i nuovi assunti nella pubblica amministrazione, visto che si allenta un po' la norma generale sul mancato sostituzione del turnover di chi va in pensione. Sommando tutte queste voci, 850 milioni più tutto il resto, si arriva a 1,5 miliardi, 1,6 miliardi, ben più del previsto, soprattutto su scala triennale, cioè per la vigenza contrattuale, si arriva a 5,5 miliardi, 5,7 miliardi. Rispetto alla previsione triennale che sta in legge di bilancio 2017, sono 2,6 miliardi, 2,7 miliardi più del previsto, che andranno reperiti. Ecco, queste sono le mie quattro osservazioni. Quella che conta soprattutto è quella sulla produttività, però, perché se non cambiamo marcia su questo, ecco, io ho i miei dubbi. Sì, sarà un contratto e io mi compiaccio per i dipendenti pubblici, però il problema è quello che il paese si aspetta. Oltretutto, ieri è stato detto che sia per le metriche produttività, dipendenti e dirigenti, sia per l'efficienza dell'unità organizzativa della pubblica amministrazione, sono i contratti, non più la legge, ed è un bene a dover entrare nel merito. Io avrei preferito chiarirlo prima. Si parla a un certo punto di misure di incentivo e di premio alla presenza al lavoro. Allora, io ho fatto un balzo, perché qui il problema è misure precise, erano state indicate nel decreto delegato Madia sul lavoro pubblico, che insieme a quello della dirigenza purtroppo è colpito dalle sanzioni della Corte Costituzionale della scorsa settimana, ma bisogna indicare procedure per sanzionare chi si assenta dal lavoro senza avere motivate ragioni, più che premiare chi fa il proprio dovere stando al lavoro, altrimenti anche in quel caso siamo a una discriminazione a vantaggio del lavoro pubblico invece di quello privato. Ma questi sono solo i miei dubbi. Ora andiamo al nostro ospite. Si chiama Fabrizio Tuzzi, è un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui è stato anche direttore generale, ed è autore di questo pregevolissimo, secondo me, libretto. Lo dico per non farvi intimorire dalla mole, non certo per dare un giudizio qualitativo, perché è un libro che io ho trovato fantastico. L'editore è Rubettino. Il titolo del libro è Amministrazione Pubblica, dall'egoismo alla competizione, manuale per una sopravvivenza operosa. Perché questo titolo? Perché questo libro, che analizza la pubblica amministrazione alla luce dei precetti di una precisa scuola economica in cui io mi riconosco, quella dell'analisi delle offerte pubbliche, e quindi public choice per intendersi, l'impianto di questo libro, invece che dare giudizi moralistici eccetera eccetera, è quello di identificare come l'interesse di chi lavora nella pubblica amministrazione, che non è l'interesse generale, come ovvio, come molti vi ripetono, non è così. Il politico ha un proprio interesse, la pubblica amministrazione e gli individui della pubblica amministrazione hanno un proprio interesse, va rimotivata e spinta attraverso incentivi e disincentivi opportuni a un meccanismo cooperativo motivante che consenta da una parte di misurarne ex ante ed ex post l'efficacia, ma dall'altra anche di innalzare i coefficienti di compartecipazione e soddisfazione di tutti coloro che ne fanno parte. Quindi un grande programma di rimotivazione nazionale, non tanto di riforme e decreti scritti dall'alto con le norme opportune. Non bastano se non c'è una visione di questo tipo, e a me piace molto questo tipo di approccio. Intanto quindi grazie a Fabrizio Tuzzi di aver scritto il libro Amministrazione pubblica dall'egoismo alla competizione, Rubettino editore, e grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buonasera e grazie per l'invito e soprattutto grazie per questa presentazione del libro, insomma la ringrazio molto. E ho detto qualche stupidaggine? Mi corregga? No, assolutamente, cioè, meglio di me l'ho presentato, per favore. Diciamo è stato perfetto. Allora, nella parte finale del libro, ma quello che conta sono i 7 capitoli precedenti, nella parte finale lei entrava anche nel merito sia dell'analisi di quello che c'era nei decreti della riforma della pubblica amministrazione Madia, quindi quello sul pubblico impiego, quello sui dirigenti, e entrava poi nel merito dei decreti delegati. Al di là di questo, lei che reazione ha, e richiamando però quello che ha scritto su queste cose, che reazione ha di fronte all'intesa ieri sugli 85 euro medi mensili per i 4 comparti del pubblico impiego? Io il primo impatto che ho avuto nel leggere le 4 paginette di accordo è che secondo me si continuano a introdurre dei vincoli di rigidità nella gestione della pubblica amministrazione. Mi spiego meglio. E in qualche modo, come posso dire, cerco anche di argomentare anche rispetto a quanto lei ha detto precedentemente, cioè nel senso che secondo me, siccome è previsto l'esplicito impegno del governo, no, a rivedere proprio il rapporto tra legge e contrattazione, sì, dando proprio il privilegio alla fonte contrattuale, e c'è quindi una retromarcia rispetto alle norme, no, introdotte per esempio alla famosa legge Brunetta, che invece dava la possibilità all'amministrazione di poter in maniera unilaterale, no, di agire su temi quali l'organizzazione del lavoro, la valorizzazione, la valutazione. Ora, secondo me, riportare questi temi all'interno di un processo di contrattazione, a mio avviso, potrebbe essere un vincolo ulteriore nella gestione dell'organizzazione e della vita della pubblica amministrazione. E anche perché, e poi ovviamente dire se questo è un bene o un male, in teoria noi dovremmo avere, come posso dire, un benchmark, una possibilità di, certo, poter confrontarlo. Purtroppo dal 2009 ad oggi la legge Brunetta, che prevedeva alcune cose, non è mai stata applicata, quindi noi non possiamo sapere se la legge Brunetta funzionava o meno. Comunque anch'io avevo delle perplessità per esempio sulla ripartizione, no, nelle 3 categorie, con l'ultima categoria etichettata dei fannulloni, però insomma, ecco, le 3 categorie, per intenderci e far capire a chi ascolta, sì, era perché il salario di merito si prevedeva nella riforma 2009 di Brunetta, che fosse divisa appunto sul totale dei dipendenti in 3 fasce, per così dire, l'attribuzione del salario di merito, di cui ce n'era una che era appunto quella di coloro che non meritavano, ecco, solo per spiegarlo meglio. Esatto. E quindi adesso per partire con il sistema di valutazione, adesso dobbiamo aspettare che si apra la stagione, appunto, che ci sia l'atto di indirizzo dell'ARAR, che si siedano intorno al tavolo, che ci sia il contratto e che all'interno del nuovo contratto ci siano indicazioni su criteri, modalità per misurare appunto l'efficacia delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni. Quindi rimandiamo ancora di qualche anno, insomma, all'entrata in vigore. Quindi vedo che lei è d'accordo con me su questo rischio. Assolutamente sì, insomma, cioè, e rimandiamo di qualche anno comunque un aspetto che secondo me è fondamentale, che è quello comunque di riuscire a valutare le attività del personale che opera all'interno della pubblica amministrazione, magari correggendo magari quelle che potevano essere delle, delle cose che non andavano, ma comunque in modo tale da poterlo implementare da subito. Invece in questo modo adesso lo rimandiamo ancora e vediamo quando verrà poi attuato, perché qui ecco, secondo me c'è una questione che poi anche nel libro diciamo in qualche modo cerco di argomentare, cioè che qui c'è una continua proliferazione di norme sulla pubblica amministrazione. Sicuramente servono e devono essere eseguite, quindi non c'è problema. Ma pensare che uno diciamo che venga promulgata una legge per poi risolvere automaticamente il problema dell'efficienza e dell'efficacia proprio non è un diciamo una funzione lineare, assolutamente, cioè va proprio perseguita, va curata l'implementazione delle leggi. Ecco, secondo me manca molto questa cultura all'interno della struttura burocratica della pubblica amministrazione italiana. Diciamo che manca una duplicità di funzione. Con Vital Bazzolini, che lavora alla Consob, spesso torniamo su questo punto, bassissima capacità di fare analisi di costo-efficacia delle norme. Questo non riguarda solo quella sulla pubblica amministrazione, riguarda in generale sulle attività normative pubblico, cioè non avere la testa sul fatto che qualunque norma andrebbe esaminata prima da terzi indipendenti, certificati professionalmente come specialisti di settore in settore per il costo efficacia, ex ante valutabile, e poi B, la attuazione e manutenzione da cui ricavare gli elementi poi per modifiche, per cassazioni generali di cui si fa decadere la norma o la si cambia integralmente. In assenza delle prime e delle seconde si va avanti secondo pure svolte politiche che però rispetto ai particolari, ai dettagli in cui buttiamo, spendiamo centinaia di miliardi poi di spesa pubblica, dovremmo avere altri criteri, diciamo, di cautela e di efficienza certificata, no? Assolutamente, cioè, la cosa fondamentale per capire, appunto, ritorniamo anche alla legge Brunetta, se quel sistema di valutazione funziona oppure no, che era stato immaginato, magari se fosse stato implementato, noi oggi potremmo dire sì, no, non funziona, possiamo fare questi cambiamenti. Oggi appunto con l'umore diciamo possiamo dare dei sentimenti, come posso dire, delle idee che noi possiamo avere su come potrebbe funzionare, ma non abbiamo elementi certi per dire se quel sistema è un sistema che può funzionare o meno. Ecco, quindi la valutazione, sono completamente d'accordo, l'implementazione, la manutenzione e la valutazione dell'impatto della norma sono fondamentali per disegnare eventuali correzioni per il futuro. Allora, ci fermiamo un minuto per il traffico e poi torniamo con Fabrizio Tuzzi, prendendo spunto dall'intesa retributiva sulla base della quale inizieranno la contrattazione poi nei quattro comparti del pubblico impiego raggiunta ieri. E Fabrizio Tuzzi, ve lo ricordo ancora una volta, leggetelo questo libro che si intitola Amministrazione pubblica dall'egoismo alla competizione, Rubettino, editore, che ha scritto lui. Tra un minuto. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta con Fabrizio Tuzzi, traendo spunto dall'intesa raggiunta ieri governo sindacati per questi 85 euro medi mensili di aumento retributivo per il rinnovo dei contratti pubblici che sono fermi da 7 anni. Non sappiamo un mucchio di cose, lo capiremo solo con la contrattazione, la fretta prima del referendum. Tutta la parte produttività, valutazione del merito, dirigenti dipendenti sarà rinviata al dopo e quindi il rischio molto forte è di aver perso un'occasione. Del resto, lo so, i tempi del ciclo elettorale sono i tempi della politica e quelli prevalgono e dettano tutte le necessità. Abbiamo visto che Fabrizio Tuzzi ci ha detto prima anch'io ho dei dubbi sul fatto che su questa metrica di produttività, visto che la riforma del 2009 non l'abbiamo attuata, non abbiamo capito in che cosa davvero non funzionava, abbiamo deciso a tavolino che non funzionava perché non l'abbiamo attuata, adesso vedremo quanto tempo passerà. Ma l'essenziale che si ricava dal suo libro però è che programmi che consentano sia di valutazione della produttività sia una concorrenza interna alle logiche migliori della pubblica amministrazione, invece che un unico modello unificante di omologazione dei comportamenti, sia la soluzione di problemi drasticamente risolti, perché quello tra decentramento e Stato centrale torna a essere toccato dalla riforma costituzionale, ma nella pubblica amministrazione ha creato più problemi di quanti non ne abbia risolti in assenza di scelte precise. senza parlare poi del passaggio tra analogico e digitale. Ieri abbiamo fatto una trasmissione sul fatto che l'INPS non riesce a leggere quello che gli iscritti all'INPS leggono con la propria parola crittata di accesso al proprio programma di versamenti. La realtà però che io le chiedo è, per fare tutto quello che ha scritto nel libro, quindi per motivare, far competere, fare una scelta tra centro e periferia, e tra analogico e digitale, visto che non basta una riforma scritta, che cos'è la rivoluzione dal basso che lei ha in mente? Ma ripeto, la rivoluzione dal basso è quella di fare in modo che, iniziando dalle persone che hanno una responsabilità all'interno delle diverse strutture pubbliche, ci si inizia a muovere cercando di passare intanto dalla logica del formalismo, dal seguire dei percorsi formali che sono quelli di seguire pedissequamente la norma, e iniziarsi a spostarsi verso una logica del risultato, cioè iniziare a lavorare attraverso una logica che appunto segue il fatto di raggiungere un obiettivo, non quello di dover pedissequamente seguire quella norma, quella procedura, anche cambiando procedure, utilizzando le tecnologie dell'informazione, ma essere rivolti a un obiettivo, cioè lavorare per raggiungere uno scopo. Ecco, questo è un modo di poter lavorare che, diciamo, ciascuno di noi può intraprendere, ovviamente a iniziare dalla possibilità che dal vertice ci sia questa impostazione nell'organizzazione. Però io le faccio un esempio, cioè la mia è una curiosità concreta, perché i quattro comparti come sono stati riunificati della pubblica amministrazione, lo dico perché è a caso, noi abbiamo un comparto funzioni centrali con 248.000 occupati e naturalmente significa ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, altri enti, ciascuno diverso dall'altro. Questo è il primo comparto. Poi c'è funzioni locali. Le funzioni locali sono regioni, comuni, eccetera, eccetera. 457.000 dipendenti. Poi c'è il terzo, la sanità. E poi c'è il quarto, istruzioni e ricerca. Istruzione e ricerca da solo vale quasi 1.200.000 lavoratori, la sanità 531.000. Ma come si fa in una trattativa, in un comparto in cui ci sono dentro ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici, una miriade che fanno cose diverse, eccetera, eccetera, stabilire criteri dall'alto mentre invece andrebbero definiti di soggetto in soggetto a seconda della specificità del lavoro che si fa, del servizio che si offre, perché gli input e gli output cambiano drasticamente, non è così? Assolutamente, assolutamente vero. Infatti una delle più grandi criticità che c'erano state con l'entrata in vigore nel 2009 della legge Brunetta fu questa drastica riduzione dei comparti. Adesso bisogna vedere se nell'ambito degli atti di indirizzo dell'ARAN mi auguro ci siano delle indicazioni per cui all'interno di questi macro comparti ci siano poi delle sottoaree più omogenee, quantomeno, anche perché altrimenti ritengo che non sarà proprio perseguibile. Esattamente. A meno che non ci sia appunto negli atti di indirizzo un'indicazione di questo genere, a mio avviso vedremo. Rimangono i quattro comparti, non sarà proprio perseguibile più nessun processo. Allora, come vedete, cari ascoltatori, oltre a ringraziare Fabrizio Tuzzi, sono dubbi motivati i nostri, non è un no agli aumenti ai dipendenti pubblici dopo 7 anni, il contrario, è il fatto che bisogna insieme collaborare a un processo nuovo di definizione dell'efficienza pubblica. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:20 domani mattina, attenti a noi due.